Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Chi vuole restaurare il comunismo è senza cervello. Chi non lo rimpiange è senza cuore. Vladimir Putin. Prologo. Mosca. Ottobre 2006. Settembre 2007. Prima che Anna Politkovskaya venisse ammazzata sulle scale del palazzo in cui abitava, il 7 ottobre 2006, soltanto chi si interessava da vicino alle guerre cecene conosceva il nome di questa giornalista coraggiosa, dichiarata avversaria della politica di Vladimir Putin. Da un giorno all'altro, il suo volto dall'aria triste e decisa è diventato in Occidente un'icona della libertà d'espressione. A quel tempo io avevo da poco finito di girare un documentario in una cittadina russa. Andavo spesso in Russia, sicché appena si è diffusa la notizia, una rivista mi ha proposto di prendere il primo volo per Mosca. Il compito che mi era stato affidato non era di svolgere un'inchiesta sull'assassinio della Politkovskaya, ma di far parlare le persone che l'avevano conosciuta e amata. Ho trascorso così una settimana negli uffici della Novaya Gazeta, il giornale di cui lei era l'inviata di punta, ma anche nelle sedi di associazioni per la difesa dei diritti umani e di comitati di madri dei soldati uccisi o mutilati in Cecenia. Erano uffici minuscoli, male illuminati, forniti di computer antidiluviani. Non meno in là con gli anni, e pateticamente poco numerosi, erano spesso anche gli attivisti che trovavo ad accogliermi. Si tratta di una cerchia ristrettissima di persone, dove tutti si conoscono e dove in poco tempo ho conosciuto tutti. Una ristrettissima cerchia che rappresenta di fatto l'unica opposizione democratica in Russia. Oltre ad alcuni amici russi, a Mosca frequentavo, e tuttora frequento, un'altra cerchia ristretta, formata da espatriati francesi, giornalisti o uomini d'affari, che sorridevano con un po' di commiserazione quando alla sera raccontavo loro i miei incontri della giornata. I virtuosi democratici di cui parlavo, i militanti per la difesa dei diritti umani, erano naturalmente persone per bene, ma la verità è che tutti se ne infischiavano. In un paese in cui nessuno bada granché alle libertà formali, purché gli sia garantito il diritto di arricchirsi, la loro era una battaglia persa in partenza. D'altro canto, nulla divertiva di più i miei amici espatriati, o a seconda dei casi niente li irritava di più, della tesi diffusa presso l'opinione pubblica francese secondo cui i mandanti dell'assassinio della Politkovskaya sarebbero stati l'FSB, la polizia politica che ai tempi dell'Unione Sovietica si chiamava KGB, e più o meno lo stesso Putin. «Senti», mi disse Pavel, un professore universitario franco-russo che si era dato agli affari, «bisogna piantarla di parlare a bambera. Sai che cosa ho letto, credo, sul Nouvel Observateur? Che è davvero una strana coincidenza che abbiano fatto fuori la Politkovskaya proprio il giorno del compleanno di Putin. Una strana coincidenza. Ma ti rendi conto di quanto bisogna essere idioti per scrivere nero su bianco una strana coincidenza? Ti immagini la scena? Riunione di crisi all'FSB. Il capo fa: ragazzi, dobbiamo spremerci le meningi. Tra poco è il compleanno di Vladimir Vladimirovich. Bisogna assolutamente trovare un regalo di suo gradimento. Qualche idea? Tutti ci rimuginano su, poi si alza una voce. E se gli portassimo la testa di Anna Politkovskaya, quella rompiballe che non fa altro che criticarlo? Mormorie di approvazione. Ottima idea. Al lavoro, ragazzi, avete carta bianca. Scusa, ha continuato Pavel. Ma una scena del genere non me la bevo. Al limite in un remake russo di In famiglia si spara, ma non nella realtà. E sai un'altra cosa? La realtà è quella che ha detto Putin, scandalizzando tanto le anime belle occidentali. L'assassinio di Anna Politkovskaya e il baccano che ne è seguito danneggiano il Cremlino molto più degli articoli che lei scriveva quando era viva, in quel suo giornale che non leggeva nessuno. Ascoltavo Pavel e i suoi amici in quei begli appartamenti del centro di Mosca che la gente come loro affitta a peso d'oro, mentre difendevano il potere, sostenendo che in primo luogo le cose potrebbero andare mille volte peggio e, in secondo luogo, che i russi sono contenti così, e allora in nome di che cosa fargli la lezione? Ma ascoltavo anche donne tristi e sciupate che passavano la giornata a raccontarmi storie di rapimenti compiuti nel cuore della notte, da automobili senza targa, di militari torturati non dal nemico, ma dai loro stessi superiori, e soprattutto di giustizia negata. Era questo l'argomento che ricorreva incessantemente. Che la polizia o l'esercito siano corrotti rientra nell'ordine delle cose, che la vita umana valga poco rientra nella tradizione russa, ma l'arroganza e la brutalità dei rappresentanti del potere di fronte a semplici cittadini che si azzardano a chiedere spiegazioni e la certezza che avevano di restare impuniti. Ecco quello che non potevano sopportare le madri dei soldati, né le madri dei bambini massacrati nella scuola di Beslan, nel Caucaso, né i familiari delle vittime del teatro della Dubrovka. Ricordate? Era l'ottobre del 2002. Per 3 giorni tutte le televisioni del globo non mostrarono altro. Durante la rappresentazione di una commedia musicale intitolata Nord-Ost, alcuni terroristi ceceni avevano preso in ostaggio tutto il pubblico del teatro. Le forze speciali scartarono ogni ipotesi di negoziato. Risolsero il problema gassando insieme sequestratori e ostaggi. Fermezza di cui si congratulò vivamente il presidente Putin. Il numero delle vittime fra i civili non è certo, ma si aggira sulle 150. E i loro familiari passano per complici dei terroristi quando domandano se non si sarebbe potuta tentare un'altra strada e chiedono di essere trattati, loro e il loro dolore, con un po' meno indifferenza. Da allora, ogni anno si ritrovano per una cerimonia commemorativa che la polizia non ha il coraggio di proibire espressamente, ma sorveglia come se si trattasse di una adunata sediziosa, cosa che di fatto è divenuta. Ci sono andato. Nella piazza del teatro ci saranno state 200 o 300 persone e attorno a loro altrettanti Amon, l'equivalente russo dei nostri nuclei antisommossa, come questi dotati di caschi, scudi e pesanti sfollagente. È iniziato a piovere. Si sono aperti alcuni ombrelli sopra le candele che con le loro crestine di carta per proteggere le dita dalla cera bollente mi hanno ricordato le funzioni ortodosse a cui mi portavano da piccolo a Pasqua. Al posto delle icone c'erano cartelloni con le foto e i nomi dei morti. Reggevano i cartelloni e le candele orfani, vedovi e vedove, genitori che avevano perduto un figlio, per i quali in russo non meno che in francese manca un termine. Non c'era nessun rappresentante dello Stato, come ha sottolineato con gelida rabbia un rappresentante delle famiglie, che ha pronunciato poche parole, le uniche di tutta la cerimonia. Nessun discorso, nessuno slogan, nessun canto. Ci si accontentava di restare in piedi, in silenzio, ciascuno con la propria candela in mano, e di parlare piano a gruppetti, fra i bastioni di Amon che avevano perimetrato la zona. Guardandomi attorno ho riconosciuto parecchi volti. Oltre alle famiglie straziate, rappresente al gran completo, quel piccolo mondo di oppositori che frequentavo assiduamente da una settimana, con i quali ho scambiato alcuni cenni del capo improntati all'afflizione del caso. In cima alla scalinata, davanti alle porte chiuse del teatro, ho visto una sagoma che mi ricordava vagamente qualcuno, ma non riuscivo a capire chi. Era un uomo con un cappotto nero. Reggeva come gli altri una candela ed era circondato da diverse persone con cui parlava sottovoce. Al centro di quel cerchio dominava la folla. Benché defilato attirava gli sguardi, dava l'impressione di essere importante e per qualche strana ragione mi ha fatto pensare a un boss mafioso che partecipi, attorniato da guardie del corpo, al funerale di uno dei suoi uomini. Lo vedevo di scorcio, dal bavero rialzato del cappotto spuntava un pizzetto. Accanto a me, una donna che pure l'aveva notato si è rivolta alla vicina. «È venuto Eduard, bene!» L'uomo ha girato la testa, come se nonostante la distanza l'avesse sentita. La fiamma della candela ne ha scolpito i lineamenti. Ho riconosciuto Limonov. Da quanto tempo non pensavo a lui. L'avevo conosciuto all'inizio degli anni Ottanta, quando si era trasferito a Parigi, aureolato del successo di un romanzo scandaloso, Il poeta russo preferisce i grandi negri, in cui raccontava la propria miserabile e splendida esistenza a New York dopo aver abbandonato l'Unione Sovietica. Lavoretti saltuari, vita alla giornata in uno squallido albergo e talvolta per strada, accoppiamenti etero e omosessuali, sbronze, furti e risse. Per la violenza e la rabbia poteva far pensare alla deriva urbana di Robert De Niro in Taxi Driver. Per lo slancio vitalistico, ai romanzi di Henry Miller, del quale Limonov aveva la scorza dura e la cannibalesca placidità. Era un libro notevole e il suo autore, a conoscerlo, non deludeva. All'epoca eravamo abituati a dissidenti sovietici barbuti e seri, malvestiti, che abitavano in angusti appartamenti zeppi di libri e di icone, dove trascorrevano nottate intere a parlare di come l'ortodossia avrebbe salvato il mondo. E ci trovavamo davanti un tipo sexy, smaliziato, spiritoso, che sembrava al contempo un marinaio in libera uscita e una rockstar. Eravamo in piena moda punk. Limonov aveva eletto al suo eroe Johnny Rotten, il leader dei Sex Pistols, e non si faceva scrupolo di definire Solzhenitsyn un vecchio coglione. Era una boccata d'aria fresca quella sua dissidenza New Wave, e sin dal suo arrivo Limonov divenne il cocco del piccolo mondo letterario parigino nel quale anch'io muovevo timidamente i primi passi. Non era un romanziere. Sapeva raccontare soltanto la sua vita, ma la sua vita era appassionante e lui la raccontava bene, con uno stile semplice, concreto, senza vezzi letterari, con l'energia di un Jack London russo. Dopo le cronache dell'immigrazione, pubblicò i suoi ricordi di bambino vissuto alla periferia di Kharkov, in Ucraina, poi di giovane delinquente, poi di poeta d'avanguardia a Mosca sotto Brezhnev. Parlava con beffarda nostalgia di quel periodo e dell'Unione Sovietica come di un paradiso per hooligan scafati. E non di rado, al termine della cena, quando eravamo tutti ubriachi tranne lui che regge l'alcol magnificamente, si metteva a tessere le lodi di Stalin, cosa che attribuivamo al suo gusto per la provocazione. Lo si poteva incontrare al Palace, dove sfoggiava una giubba da ufficiale dell'Armata Rossa. Scriveva per l'Idiot International, il giornale di Jean Lederner, non un modello di coerenza ideologica, ma punto d'incontro di menti anticonformiste e brillanti. Gli piacevano le risse e aveva un successo incredibile con le ragazze. La sua spregiudicatezza e il suo passato avventuroso mettevano in soggezione noi giovani borghesi. Limonov era il nostro barbaro, il nostro teppista, lo adoravamo. Le cose hanno cominciato a prendere una strana piega quando è crollato il comunismo. Erano tutti felici tranne lui. E adesso, quando invocava per Gorbaciov il plotone di esecuzione, non sembrava affatto che scherzasse. Ha iniziato a scomparire per lunghi viaggi nei Balcani, dove abbiamo scoperto inorriditi che combatteva a fianco dell'esercito serbo, il che significava, ai nostri occhi, a fianco dei nazisti o degli uto colpevoli di genocidio. Lo abbiamo visto in un documentario della BBC mitragliare Sarajevo assediata sotto lo sguardo benevolo di Radovan Karadzic, leader dei serbi bosniaci e notorio criminale di guerra. Dopo tali prodezze è tornato in Russia, dove ha fondato un partito politico dall'accattivante nome di Partito Nazional Bolscevico. Ogni tanto ci capitava di vedere alla televisione dei giovani dal cranio rasato, vestiti di nero, che sfilavano per le strade di Mosca esibendosi in un saluto metà hitleriano, braccio teso e metà comunista, pugno chiuso, sbraitando slogan come Stalin, Beria, Gulag, sottointeso ridateceli, e sventolando bandiere che imitavano quelle del Terzo Reich con falce e martello al posto della croce uncinata. L'esaltato con il berretto da baseball che gesticolava megafono alla mano in testa a quei cortei era il ragazzo simpatico e attraente del quale, pochi anni prima, eravamo tutti così orgogliosi di essere amici. Faceva uno strano effetto, come scoprire che un vecchio compagno di scuola è diventato un boss della criminalità o è saltato in aria in un attentato terroristico. Si ripensa a lui, si rivangano i ricordi, si cerca di immaginare quali possano essere state le molle interiori e la concatenazione di eventi che hanno spinto la sua vita così lontano dalla nostra. Nel 2001 abbiamo saputo che Limonov era stato arrestato, processato e incarcerato per motivi piuttosto oscuri. Si parlava di traffico d'armi e di un tentativo di colpo di Stato in Kazakistan. Dire che a Parigi non abbiamo sgomitato per firmare la petizione che ne chiedeva la liberazione è un eufemismo. Ignoravo che fosse uscito di prigione ed ero soprattutto sbalordito di ritrovarlo lì, Rispetto al passato aveva meno l'aspetto di un rocker e più quello di un intellettuale, ma era sempre circondato dalla stessa aura, imperiosa, energica, percettibile anche a 100 metri di distanza. Mi sono chiesto se unirmi alla fila di persone che, visibilmente emozionate per la sua presenza, andavano a salutarlo con rispetto. A un certo punto, però, ho incrociato il suo sguardo. Non sembrava avermi riconosciuto, e io del resto non sapevo bene cosa dirgli, così ho lasciato perdere. Turbato da questo incontro, sono tornato in albergo dove mi aspettava un'altra sorpresa. Sfogliando una raccolta di articoli di Anna Politkovskaya, ho scoperto che 2 anni prima la giornalista aveva seguito il processo di 39 militanti del Partito Nazional Bolscevico, accusati di aver assalito e devastato la sede dell'amministrazione presidenziale al grido di Putin vattene, reato per il quale si erano beccati pesanti pene detentive. La Politkovskaya li difendeva a spada tratta. Giovani coraggiosi, puliti, gli unici o quasi che permettevano di guardare con fiducia all'avvenire morale del paese. Non mi raccapezzavo. Il suo caso mi sembrava passato in giudicato senza appello. Limonov era uno sporco fascista, a capo di una milizia di skinhead. E invece adesso una donna che dalla sua morte era unanimemente considerata una santa, parlava di lui e dei suoi come di eroi della lotta democratica in Russia. Su internet, Yelena Bonner era dello stesso avviso. Yelena Bonner, la vedova di Andrei Sakharov, grande scienziato, grande dissidente, grande coscienza morale, premio Nobel per la pace. Anche lei aveva stima dei Nazpol. Imparai in quell'occasione che in Russia i membri del Partito Nazional Bolscevico vengono chiamati così. Forse avrebbero fatto bene, diceva Yelena Bonner, a cambiare nome al partito e a sceglierne uno che non suonasse così male a certe orecchie. Quanto al resto, i Nazbol erano persone eccezionali. Qualche mese dopo ho saputo che si stava organizzando, sotto il nome di Drugaja Rassia, l'altra Russia, una coalizione politica formata da Garry Kasparov, Mikhail Kasyanov e Eduard Limonov, ossia uno dei più grandi giocatori di scacchi di tutti i tempi, un ex primo ministro di Putin e uno scrittore impresentabile secondo i nostri canoni. Bizzarra combriccola. Evidentemente era cambiato qualcosa, forse non Limonov, ma la posizione che questi occupava nel paese. Perciò quando Patrick de Saint-Exupéry, che avevo conosciuto ai tempi in cui era corrispondente del Figaro da Mosca, mi ha detto che stava preparando il lancio di una rivista di attualità e mi ha chiesto se avessi un argomento per il primo numero, ho risposto senza neanche pensarci: Limonov. Patrick ha sgranato tanto d'occhi. Ma Limonov è un farabutto di mezza tacca? Non lo so, ho ribattuto. Bisognerebbe verificare. Bene, ha tagliato corto Patrick senza chiedere spiegazioni. Vai a verificare. Mi ci è voluto un po' prima di imboccare la pista giusta e ottenere il suo numero di cellulare da Sasha Ivanov, un editore di Mosca. E quando l'ho avuto, mi ci è voluto un pezzo prima di comporlo. Non sapevo che tono adottare. Non solamente nei suoi riguardi, ma anche nei miei. Ero un vecchio amico o un intervistatore sospettoso? Dovevo parlare russo o francese? Dargli del tu o del lei? Ricordo tutti questi dubbi, ma curiosamente non la frase che ho pronunciato quando già al primo tentativo e persino prima del secondo squillo Limonov ha sollevato il ricevitore. Devo essermi presentato e lui, senza esitare un attimo, ha risposto: «Ah, Emmanuel, come sta?» Preso alla sprovvista, ho farfugliato un non c'è male. Noi due ci conoscevamo appena, non ci vedevamo da 15 anni e mi aspettavo di dovergli ricordare chi fossi. Ha subito continuato: «Lei era alla cerimonia della Dubrovka l'anno scorso, vero?» Sono rimasto senza parole. Io lo avevo fissato a lungo, a 100 metri di distanza, ma i nostri sguardi si erano incrociati solo per un attimo. E da parte sua non c'era stato alcun segno, né un'esitazione, un'alzata di sopracciglio che mi avesse riconosciuto. Poi, una volta ripresomi dallo stupore, ho pensato che Sasha Ivanov, il nostro amico editore, avesse potuto anticipargli la mia telefonata, ma a Sasha Ivanov non avevo detto niente della mia presenza alla Dubrovka. Il mistero restava dunque insoluto. Ho capito in seguito che non c'era nessun mistero. Semplicemente Limonov ha una memoria prodigiosa e un non meno prodigioso autocontrollo. Quando gli ho detto che volevo scrivere un lungo articolo su di lui, ha accettato senza problemi di lasciarmi passare 2 settimane in sua compagnia. A meno che, ha aggiunto, non mi rimettano in galera. Vengono a prendermi per portarmi dal loro capo 2 ragazzi muscolosi, cranio rasato, jeans neri, bomber nero e anfibi. Attraversiamo Mosca su una Volga nera con i vetri oscurati e non mi stupirei se mi bendassero. Invece no. I miei angeli custodi si accontentano di ispezionare velocemente il cortile interno del palazzo, poi la tromba delle scale, infine il pianerottolo su cui si affaccia un appartamentino buio, quasi privo di mobili, come un alloggio occupato abusivamente. All'interno, altri 2 crani rasati ammazzano il tempo fumando sigarette. Edouard, mi informa uno di loro, si divide fra 3 o 4 domicili, li cambia il più spesso possibile, evita di avere orari regolari e non fa mai un passo senza le sue guardie del corpo, tutti militanti del suo partito. Mentre mi fanno aspettare, penso che il mio articolo comincia bene. Nascondigli, clandestinità, tutto è quanto mai romanzesco. Soltanto non mi è facile scegliere tra i 2 generi di questo romanzo, il terrorismo e la resistenza, Carlos e Jean Moulin, anche se finché non viene chiusa la partita e la versione ufficiale della storia determinata una volta per tutte, i 2 generi si somigliano. Mi chiedo pure che cosa si aspetti Limonov dalla mia visita. Forse è rimasto scottato dai pochi profili che gli hanno dedicato i giornalisti occidentali ed è diffidente, o forse conta su di me per una riabilitazione. Io stesso non ne ho la minima idea. Direi anzi che capita di rado, al momento di incontrare la persona di cui si deve scrivere, di avere un'idea tanto vaga di che pesci pigliare. Alla fine vengo fatto entrare in un ufficio spartano con le tende tirate. Limonov è in piedi, in jeans e maglione neri. Stretta di mano, nessun sorriso, circospezione. A Parigi ci davamo del tu, ma al telefono mi ha dato del lei. E andiamo avanti così. Nonostante la mancanza di esercizio, il suo francese è meglio del mio russo. Vada dunque per il francese. Una volta faceva 1 ora al giorno di flessioni e sollevamento pesi e deve aver continuato perché a 65 anni è ancora asciutto. Pancia piatta. Linea d'adolescente, pelle liscia e bruna da mongolo, anche se ormai porta i baffi e un pizzetto grigi, che ricordano un po' il D'Artagnan invecchiato di 20 anni dopo, e molto un commissario politico bolscevico, in particolare Trotsky, tranne che, per quanto ne so io, Trotsky non faceva bodybuilding. In aereo ho riletto uno dei suoi libri migliori, Diario di un fallito, la cui quarta di copertina dà un'idea abbastanza precisa. Se Charles Manson o Lee Harvey Oswald avessero tenuto un diario, sarebbe stato simile a questo. Ne ho ricopiato qualche brano nel taccuino. Questo, per esempio. Sogno un'insurrezione violenta. Non sarò mai un altro Nabokov. Non andrò a caccia di farfalle per i prati su gambe senilmente nude, pelose e anglofone. Se mai guadagnerò 1 milione, mi comprerò le armi per organizzare un colpo di Stato in un paese qualsiasi. Era la sceneggiatura che Limonov raccontava a se stesso quando aveva 30 anni, ed era un esule senza il becco di un quattrino scaricato sui marciapiedi di New York. Ed ecco che 30 anni dopo quella sceneggiatura è diventata un film. Limonov vi interpreta il ruolo che sognava, quello del rivoluzionario di professione, dell'esperto di guerriglia urbana, di Lenin nel suo vagone blindato. Glielo dico. Si mette a ridere. Un risolino secco e aspro, con l'aria che esce dalle narici. È vero, ammette. Nella vita ho realizzato il mio programma. Ma ci tiene a puntualizzare, non è più il momento della rivolta armata. Non sogna più un'insurrezione violenta, piuttosto una rivoluzione arancione come quella appena avvenuta in Ucraina. Una rivoluzione pacifica, democratica, che secondo lui il Cremlino teme più di ogni altra cosa ed è pronto a reprimere con ogni mezzo. È per questo che vive da uomo braccato. Qualche anno fa è stato picchiato selvaggiamente con mazze da baseball e di recente è scampato per un soffio a un attentato. Il suo nome compare in cima agli elenchi dei nemici della Russia, cioè degli uomini da eliminare, che le conventicole vicine al potere additano la vendetta popolare rendendone pubblici indirizzi e numeri di telefono. Fra gli altri nomi sull'elenco, Anna Politkovskaya, assassinata con un fucile a pompa, l'ex ufficiale dell'FSB, Litvinenko, avvelenato con il polonio dopo che aveva denunciato la deriva criminale dei servizi segreti, il miliardario Khodorkovsky, oggi in prigione in Siberia per aver voluto occuparsi di politica. E il prossimo è lui, Limonov. Il giorno successivo Limonov tiene una conferenza stampa insieme a Kasparov. Riconosco in sala la maggior parte dei militanti che ho incontrato mentre lavoravo al mio articolo sulla Politkovskaya, ma ci sono anche parecchi giornalisti, soprattutto stranieri. Alcuni sono molto eccitati, come la troupe svedese che sta girando non un breve servizio, ma un vero e proprio documentario, 3 mesi di riprese, su quella che spera diventi l'inarrestabile ascesa del movimento Drugaja Rossija. Ne sembrano sicurissimi questi svedesi e contano di vendere il loro documentario a peso d'oro nel mondo intero quando Kasparov e Limonov saranno giunti al potere. Corporatura massiccia, sorriso aperto, bella faccia da ebreo armeno. Quando salgono entrambi sul palco, l'ex campione di scacchi attira l'attenzione molto più di Limonov, che con il suo pizzetto e gli occhiali sembra interpretare la parte dello stratega dal sangue freddo, che si mantiene nell'ombra del leader naturale. D'altronde Kasparov parte in quarta, spiegando perché le elezioni presidenziali previste per l'anno successivo, il 2008, sono un'occasione storica. Putin è al termine del suo secondo mandato e la Costituzione gli vieta di ripresentarsi per la terza volta. Il presidente ha cristallizzato tutto intorno a sé e dalle file del potere non si fa avanti nessun candidato. Per la prima volta nella storia della Russia, un'opposizione democratica ha una grande opportunità. Ai media è stato messo il bavaglio e quindi nessuno sa fino a che punto i russi ne abbiano le scatole piene degli oligarchi, della corruzione e dell'onnipotenza dell'FSB, ma lui, Kasparov, lo sa. L'oratore è eloquente, modula una voce da violoncello e comincio a pensare che forse gli svedesi hanno ragione. Vorrei poter credere che sto assistendo a un evento straordinario, qualcosa di simile agli esordi di Solidarnosc, ma proprio allora il mio vicino, un giornalista inglese, sghignazza e mi sussurra con l'alito pesante di gin. Bullshit. I russi stravedono per Putin e non capiscono perché una costituzione del cazzo impedisca loro di eleggere per 3 volte di fila un presidente così in gamba. E non dimentichi un piccolo particolare. La Costituzione vieta 3 mandati consecutivi. Non di stare fermi un giro, lasciando un uomo di paglia tenere in caldo la propria poltrona e ripresentarsi al giro successivo. Vedrà. Questa confidenza spegne il mio entusiasmo. La verità ridiventa improvvisamente quella dei realisti, di chi sa come va il mondo e non si lascia mettere nel sacco, del mio sagace amico Pavel, secondo cui questa storia dell'opposizione democratica in Russia è come l'arrocco nella dama. Un espediente non contemplato dalle regole del gioco, che non ha mai funzionato e non funzionerà mai. Kasparov, che un attimo prima era disposto a vedere come un Wałęsa russo, è diventato una specie di François Bayrou. Adesso il suo discorso mi sembra enfatico, farraginoso, e io e il mio vicino cominciamo a sviluppare la complicità di 2 somari seduti nell'ultima fila di banchi che durante la lezione si passano immagini oscene. Io gli mostro un libro di Limonov che ho appena comprato e che è stato tradotto soltanto in Serbia. Si intitola Anatomia dell'eroe e contiene una serie di foto piuttosto clamorose in cui si vede l'eroe in questione, Limonov himself, pavoneggiarsi in tuta mimetica accanto al miliziano serbo Arkan, a Jean-Marie Le Pen, al populista russo Žirinovskij, al mercenario Bob Denard e a qualche altro umanista. «Fucking fascist», è il commento del giornalista inglese. Alziamo entrambi lo sguardo su Limonov. Accanto a Kasparov, appena un po' arretrato, Limonov ascolta le sue rimostranze contro la persecuzione messa in atto dal potere. Non sembra che stia aspettando quel che tutti gli uomini politici aspettano in un comizio, che l'oratore finisca di parlare per prendere la parola al posto suo. Si limita a starsene lì, seduto, attento, dritto e tranquillo, come un monaco zen in meditazione. La calda voce di Kasparov è ormai soltanto un ronzio in lontananza. Ora osservo il volto indecifrabile di Limonov. E più lo osservo, più mi accorgo che non ho la minima idea di che cosa stia pensando. Ci crede veramente a questa rivoluzione arancione? O si diverte lui, il bandito, la canaglia, a impersonare il ruolo del democratico virtuoso in mezzo a quegli ex dissidenti, a quei militanti per la difesa dei diritti umani che per tutta la vita ha sempre considerato degli ingenui? Sotto sotto ci gode a fare il lupo nell'ovile? Ritrovo nel mio taccuino un altro brano del diario di un fallito. Sì, ho deciso di schierarmi con il male, con i giornali da strapazzo, con i volantini ciclostilati, con i movimenti e i partiti che non hanno nessuna possibilità di farcela, nessuna. Mi piacciono i comizi frequentati da quattro gatti, la musica cacofonica, di musicisti senza talento. Odio le orchestre sinfoniche e il balletto. Se prendessi il potere, taglierei la gola a tutti i violinisti e i violoncellisti. Lo avrei tradotto volentieri al giornalista inglese, ma non è stato necessario, perché anche lui deve aver pensato nello stesso momento quello che ho pensato io. Infatti, si gira verso di me e mi dice, stavolta assolutamente serio, gli amici di Limonov farebbero bene a non fidarsi di lui. Se per caso prendesse il potere, per prima cosa li farebbe fucilare tutti. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrer, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.